quando il sole ritornerà nel cielo, nei boschi ci sarà il disgelo. Tu mi sveglierai e fuori correremo a respirare il canto del disgelo. E allora la neve correrà nei fiumi ancora, e non aver paura, i mormori che senti sono solo mille gocce di diamante. Il disgelo verrai sulle lontane colline, sentirai voci umane. Il disgelo sarà come una voce che parlerà di cose ormai scordate, e le dirà, spargendosi nell'aria come un'onda, sull'acqua degli oceani, sulle pietre dei monti, nel fuoco dei mattini e dei tramonti. Il disgelo verrà su tutto il mondo e scioglierà ogni ghiaccio nella terra. Il disgelo sarà come un gran vento che soffierà sul fango della guerra. Quando il disgelo ritornerà su noi, ci troverà uniti nella luce, e le parole che voglio e che tu vuoi sarà soltanto il vento che le dice. E troverai nel caldo di ogni giorno quelle favole che credevi per sempre perdute sul cielo, ma che ora torneranno dentro di noi col disgelo, col disgelo. Col disgelo.